Buonasera. La situazione è, diciamo, delicata. Diciamo che poteva andare peggio, tenuto conto di tutti i fattori, dell'entità dell'impatto, eccetera. Sì, diciamo che a seguito dell'accadimento si sono registrate delle conseguenze non troppo felici, dovute a una valutazione immediata, per così dire, imprecisa. La situazione è delicata, ma recuperabile entro un certo limite. L'importante è non fasciarsi anzitempo la testa. Voglio dire che la prognosi è riservata, ma per precauzioni di tipo giuridico-burocratico e scaramantico. Al momento, fatte le dovute valutazioni, tutto ciò che è il nostro potere di fare è attendere il risolversi spontaneo degli eventi. Sapremo tutto nelle prossime 48 ore, forse meno, forse addirittura 36. Non nascondo che c'è una remota possibilità. E attenzione, si tratta solo di una possibilità remota, che d'altronde è nostro dovere tenere presente, ma solo per cautela. Esiste, diciamo, la recondita possibilità che si abbia a che fare con un permanere della problematica motoria. Tutto fa ben sperare, ma rimane il rischio che la natura lesiva del trauma non rientri in tempi brevissimi. Questo può implicare, diciamo, una riuscita imperfetta. Ecco, si potrebbe inferire. Non lasceremo nulla d'intentato. Le prospettive di guarigione sono non esattamente immediate, ma si presuppone che si possa reintervenire per ottenere, ancorché non proprio, la totalità del rientro. Azzarderei una percentuale che si aggira vicino, grosso modo, al 77%. Dico che c'è la speranza di ottenere risultati che non definisco ottimali, ma comunque importanti. Sì, mi rendo conto che la diagnosi post-traumatica è stata, diciamo così, di difficile lettura, ma rimane comunque la quasi certezza di uscirne. Comunque sufficientemente soddisfatti. Io capisco la stanchezza, le condizioni psicofisiche particolari, ma tutto ciò che c'è da fare è aspettare. Che le cose si aggiustano, si potrebbe dire, praticamente da sole, nella quasi totalità dei casi. E tutto ciò che c'è da fare, ripeto, è andare a casa e cercare di passare là la notte. Le informazioni... Jacopo? Sì? Mi reggi questo? Sì. Passo, passo, passo, passo, chassé, til traverse talle, flick, flick, grange, seconda, race, pie, race, pie, race, pie, giro e corro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, assemble, braccio, braccio, giù, passo indietro, su, tenu, seconda curva, mani a terra, lancio, quarta, e spirale, salgo, e cabriol, contrazione! Développé arabesque, ronde de jambes en l'air, fondu, allongé, chest, passo, passo, entrelacé, instilti, incrocio, salto, spirale arabesque, getta a terra, passo, passo, passo, passo, doppio tourné. E poi? E poi basta. Allora vado. Sì, sì. Da dove? Di là. Di là dove? Di là. Va bene. Comunque hai i capelli al contrario. Twin Peaks finisce che Laura Palmer l'ha uccisa il padre posseduto da Bob. Nei soliti sospetti, Kaiser Soze è quello storpio e zoppo, e alla fine si capisce che aveva finto tutto il tempo. The Cube finisce che muoiono tutti tranne il ritardato mentale, però nessuno ti spiega il cubo. Mulholland Drive, uno cerca di capire, invece non si capisce nulla. Assassino sull'Oriente Express, sono tutti assassini. In Invita a cena con delitto, il maggiordomo è l'assassino. In Psycho, il gestore del motel è l'assassino. Million Dollar Baby, lui gli stacca la spina e lei muore. Titanic, la nave affonda e DiCaprio muore. Dancer in the Dark, Bjork viene condannata a morte e muore. Nelle conseguenze dell'amore, lui lo calano nel cemento e muore. Old Boy, lui scopre che ha fatto sesso con la figlia e si taglia la lingua. In The Others e Sesto Senso si scopre che erano fantasmi. Lei, i bambini e Bruce Willis. Vanilla Sky è tutta una realtà virtuale. La Maleducation si scopre che è tutto un film. Biancaneve e Sette Nani, lei sposa il principe. La Bella Addormentata nel Bosco, lei sposa il principe. Cenerentola, lei sposa il principe. In Sole Enigmista, l'enigmista è il cadavere sdraiato per terra fin dall'inizio. Dogville, arriva il babbo mafioso di lei e lei li fa sterminare tutto il paesino. Trendevi, si scopre che è tutto un sogno di un ebreo in un lager. E Fight Club, lui e l'amico sono la stessa persona. Sacco e Vanzetti, loro muoiono. Giovanna d'Arco, lei muore bruciata. Malcolm X, li sparano e muore. Gandhi, muore. I Cento Passi, Peppino Impastato, muore. Jesus Christ Superstar, Gesù muore crocifisso. Tempi moderni, Chaplin e la ragazza se ne vanno lungo la via e vissero per sempre felici e contenti. Ciao bella, sono Claudio Cirri. Oh, caro. Come stai? Allora, come stai? Bene. Bene, dove sei? A Roma. Ah, fantastico. C'è Andrea? Io sono a teatro, sto facendo spettacolo e il pubblico ti sta sentendo perché ho il viva voce nel cellulare. Come c'è? Ecco, vedi? Questa cosa qui. Bene, allora saluta tutti. Perché l'avevi saputo? No, non l'avevo saputo. C'è da sapere qualcosa? No, perché hai detto questa cosa qui, pensavo che fosse, che lo sapevi, che qualcuno... Beh, ecco, no, per farti una domanda sostanzialmente. Saprei rispondere? Sì, saprei rispondere. Che cos'è per te la fine? Oddio, che cos'è per me la fine? È una domanda troppo impegnativa. Che cos'è per me la fine? Andre, aiutami, che cos'è per me la fine? Che cos'è la fine? È il Cirri, è in mezzo allo spettacolo, è il termine dell'inizio. Chi è? Beh, fantastico, meraviglioso, grazie. Aspetta, un'altra cosa, e se puoi telefonare a questo numero prima della fine dello spettacolo, che finisce tra un quarto d'ora e 20 minuti, e lasciare un messaggio in segreteria se ti va di dire qualcos'altro su cos'è la fine. Va bene. E okay. Poi noi lo ascoltiamo tutti insieme. Va bene, ok. Grazie, bella. Ciao. Ciao. Buonasera. Grazie per essere intervenuti. Convenuti in numero così copioso a questa commemorazione funebre. Un afflato di compassionevole fratellanza ci spinge a principiare stringendoci idealmente in un unico caldo abbraccio. Noi e voi qui presenti in sala. Stasera. Per lui. Claudio ci ha lasciati. E in questo momento sicuramente ci sta guardando. In questo momento ci sta guardando. Dall'assù. In paradiso. Assiso tra angeli. Santi. Beati di ogni specie. Beati d'ogni speme. Di lui sicuramente ci ricordiamo... Di lui ci piace ricordare. Di lui ci piace ricordare... Soprattutto l'umana pietà. L'umana pietà. La cristiana generosità. La cristiana generosità, la compassione. La disarmante spontaneità. La disarmante spontaneità. La semplicità. La semplicità. L'onestà. E l'onestà. Intellettuale. No, l'onestà. L'onestà. L'umiltà. E l'umiltà. La forza nelle difficoltà. La forza nelle difficoltà. La veridicità. La veridicità. Vorrei... La beltà. Vorrei ricordarlo... E di lui ci piace riportare qui un passo che amava molto di un celebre autore latino nelle cui letture nelle ultime ore di vita terrena per Claudio soleva sovente leggere nella vita quotidiana e il passo Questo esametro che la giovane moglie ha voluto far incidere a lettere d'oro sulla lapide, sulla bara del marito e del grande poeta Virgilio Marone dalla sua opera Magna Georgico. L'esametro recita Optima quaeque dies miseris mortalibus edit prima fugit. Il dolore è troppo forte. Il cordoglio mi attanaglia. Mi sento mancare. Fai finta di piangere. Più forte. Qualcuno vuole intervenire per l'ultimo saluto alla salma, può farlo. Ma questa non è la nostra canzone. No. No. Ma tu non sei Claudio? No. Io sono Matteo. Ah. Allora... Ciao. Allora, da noi che siamo qua a questa scena da Andrea Michele.